Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e oggi ritroviamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, l'altro giorno è uscita l'indagine dell'OCSE che dice che l'Italia è il terzo paese con più anziani nel mondo, dopo il Giappone e la Spagna. Quindi Giappone e Spagna sono un po' più vegliardi, però con l'invecchiamento della popolazione poi ci sono tutta una serie di cose che vanno a modificare la nostra vita quotidiana, sia per noi che viviamo normalmente, ma anche per i truffatori. Sì Francesco, allora l'allarme lanciato dall'OCSE è un allarme che ormai c'è anche abbastanza noto, cioè il fatto che la popolazione sta invecchiando sempre di più in Italia, e ormai un quarto della popolazione è over 65. Tra l'altro l'OCSE dice che nel 2050 avremo addirittura 74 over 65 su ogni 100 persone, ogni 100 cittadini. Il che ci fa capire, insomma, che andremo verso un mondo sempre di persone sempre più anziane. Questo fa sì che l'allarme lanciato dall'OCSE chiaramente faccia preoccupare anche noi per questo motivo, per il fatto che, come sappiamo bene Francesco, noi gran parte delle persone che si rivolgono a noi sono persone anziane, e soprattutto vediamo che purtroppo le persone anziane sono sempre più vittime di truffe più o meno pesanti, che ci fanno veramente indignare. Le ultime di cui possiamo parlare riguardano nella nostra zona, per esempio finti dipendenti Veritas che andavano appunto nelle case delle anziane e dicevano appunto che per fare dei prelievi dell'acqua, per fare dei controlli sull'acqua, era necessario che queste signore si togliessero tutti i gioielli perché poteva interferire sulle loro analisi. Però sappiamo benissimo che la truffa che è veramente antipatica e che ha visto coinvolti moltissimi anziani in tutta Italia è stata anche quella delle finte tragedie familiari. Francesco, sì. Abbiamo sentito parlare tanto in questo periodo, il finto carabiniere che si presenta a casa dell'anziano dicendo appunto che il nipote ha fatto un incidente, che quindi era necessario che venissero dati dei soldi per pagare l'avvocato o cose del genere. Purtroppo l'anziano è una persona molto spesso ingenua, o comunque facilmente raggirabile, soprattutto dalle persone più scaltre, dalle persone giovani, dalle persone con una buona parlantina. Per cui ci troviamo in una situazione a dir poco drammatica, e noi lo vediamo quotidianamente con le questioni che invece riguardano, ne abbiamo parlato più volte, la telefonia, oppure le forniture di gas e luce, oppure i venditori porta a porta. Qua ci troviamo di fronte a truffe meno articolate rispetto a quella del finto carabiniere o del finto prete, però diciamo su metodologie di vendita soprattutto molto scorrette, soprattutto per le persone anziane che molto spesso non capiscono di cosa si tratta, nel senso che quando ad esempio vengono contattate da un call center non si rendono spesso conto che quel call center gli sta vendendo un contratto. Quando a casa arrivano di venditori porta a porta, soprattutto giovani affabulatori, si fanno raggirare e quindi molto spesso firmano contratti da migliaia di euro. Ecco, quindi collegando quello che dice l'OCSE, cioè sul fatto che l'Italia assieme a Spagna e Giappone è un paese che raccoglie sempre più anziani, e vedendo che questi anziani vengono sempre più truffati, non possiamo dire di non essere preoccupati, siamo molto preoccupati. Per cui come associazione chiediamo al governo, perché è il governo che può intervenire con leggi sempre più forti e con misure sempre più radicali, chiediamo appunto che ci siano degli interventi per far sì che l'anziano venga tutelato. Di recente il governo ha inasprito le pene, per esempio per i truffatori, tipo quelli di cui facciamo l'esempio prima, quelli che appunto vanno proprio nelle case fingendosi di essere ciò che non sono. Quindi. È di questi giorni anche, mi capita sfogliando i giornali ovviamente, di leggere di anziani a cui viene strappata per esempio la collanina piuttosto che l'orologio, perché con i finti abbracci, no? Si fa finta di essere un conoscente, amico, ah ciao come stai, intanto mentre ti abbraccio o ti strappo via la collanina con forza o te la sfilo. Sì, quindi Francesco, noi eravamo abituati ancora ai vecchi tempi, diciamo, al furto delle pensioni fuori dalle poste, sappiamo sì. che adesso fondamentalmente la pensione viene accreditata, anni fa c'era questa metodologia odiosissima, adesso abbiamo il furto delle collanine, proprio come dicevi te, con il finto abbraccio, la finta persona, la persona che fa finta di conoscere la persona anziana, l'abbraccia, lo saluta e ne approfitta per rubargli il portafoglio, le collanine. E come dicevamo appunto adesso, le vittime preferite sono appunto le persone anziane. Noi lo vediamo in modo molto odioso anche questo con i venditori porta a porta, che non sappiamo come quasi sempre riescono a intrufolarsi nelle case di persone anziane e soprattutto sole, che magari sono solo in quel momento perché il marito è via, ed evidentemente queste persone studiano anche queste situazioni, quindi sanno quando la persona anziana è sola. Quindi l'anziano diventa sempre più vittima. Noi dalla parte nostra come associazione crediamo sta facendo un buon lavoro in questo senso, nel senso che stiamo veramente seguendo, tutelando, cercando di aiutare moltissimi anziani che hanno problemi con i fornitori e con le utenze della telefonia e di luce e di gas. Non possiamo fare molto, purtroppo, Francesco, per le persone truffate in altro modo, quindi appunto come i finti operatori di Veritas o come il finto prete, il finto carabiniere, il finto poliziotto. In quel caso sappiamo benissimo che il primo passaggio è quello di denunciare la cosa alle forze dell'ordine. E per fortuna, per esempio, in questo caso abbiamo avuto 15 arresti nel milanese per le persone che truffavano gli anziani inventando finte tragedie familiari, però diciamo che gli arresti sicuramente non compensano il numero di persone che continuano a truffare gli anziani. Certo. Una pratica molto odiosa per la quale chiediamo veramente un inasprimento delle pene, perché non si può approfittare così di persone di una fascia così debole della popolazione. Certo, anche perché poi magari non tutti denunciano e quindi ci sono delle truffe che non vengono mai alla luce, ma che in realtà ci sono. E allora, se avete qualche domanda da fare, potete sempre cercare il numero di telefono dell'ADICO nel sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.